Cari fratelli e sorelle, dopo il tempo delle feste ritorniamo con... Grazie. Dopo le feste ritorniamo alle catechesi normali, anche se visibilmente in piazza è ancora festa, ma con le catechesi ritorniamo, come detto, al filo iniziato già prima. E abbiamo parlato prima dei 12 apostoli, poi dei discepoli degli apostoli, adesso di grandi personalità della Chiesa nascente, della Chiesa antica. L'ultima volta avevamo parlato su Sant'Ireneo di Lione, oggi su Clemente Alessandrino, un grande teologo che nacque probabilmente ad Atene, intorno alla metà del secondo secolo. Da Atene ereditò quello spiccato interesse per la filosofia che avrebbe fatto di lui uno degli alfieri del dialogo tra fede e ragione nella tradizione cristiana. Ancora giovane, egli giunse ad Alessandria, la città simbolo di quel fecondo incrocio tra culture diverse che caratterizzò l'età ellenistica. Lì, in Alessandria, fu discepolo di un certo Panteno fino a succedergli nella direzione della scuola catechetica. Numerose fonti attestano che fu ordinato presbitero. Durante la persecuzione degli anni 202-203 abbandonò Alessandria per rifugiarsi a Cesarea in Cappadocia, dove morì verso il 215. Le opere più importanti che di lui ci rimangono sono tre: il Protrettico, il Pedagogo e gli Stromati. Anche se non pare che fosse questa l'intenzione originaria dell'autore, è un fatto che questi tre scritti costituiscono una vera trilogia destinata ad accompagnare efficacemente la maturazione spirituale del cristiano. Il primo, il Protrettico, come dice la parola stessa, è una esortazione rivolta a chi inizia o cerca il cammino della fede. Meglio ancora, il Protrettico coincide con una persona, il Figlio di Dio, Gesù Cristo si fa esortatore degli uomini affinché intraprendano con decisione la via verso la verità. E lo stesso Gesù Cristo si fa poi pedagogo, cioè educatore di quelli che in forza del battesimo sono ormai diventati figli di Dio. E il medesimo Gesù Cristo infine è anche didascalo, cioè maestro, che propone gli insegnamenti più profondi. Essi sono raccolti nella terza opera di Clemente, gli Stromati, parola greca che significa tappezzerie, e si tratta in effetti di una composizione non sistematica, di una tappezzeria di argomenti diversi, frutto diretto dell'insegnamento catechistico di Clemente. Nel suo complesso, la catechesi clementina accompagna passo per passo il cammino del catecumeno e del battezzato, perché con le due ali della fede e della ragione essi giungano a una intima conoscenza della verità che è Gesù Cristo, il Verbo di Dio. Solo questa conoscenza della persona che è la verità è, così dice, la vera gnosi, l'espressione greca per conoscenza, per intelligenza. E l'edificio costruito dalla ragione sotto impulso di un principio soprannaturale, la fede stessa, costruisce la vera filosofia, cioè la vera comprensione del cammino da prendere nella vita. Quindi l'autentica gnosi è uno sviluppo della fede, suscitato da Gesù Cristo nell'anima unita a Lui. Clemente distingue poi due gradini della vita cristiana. Primo gradino, i cristiani credenti che vivono la fede in modo comune, ma pur sempre aperta agli orizzonti della santità. E poi il secondo gradino, i gnostici, cioè quelli che conducono già una vita di perfezione spirituale, ma in ogni caso il cristiano deve partire dalla base comune della fede attraverso un cammino di ricerca, lasciarsi guidare da Cristo, e così può giungere alla conoscenza della verità e delle verità che formano il contenuto della fede. E tale conoscenza, ci dice Clemente, diventa nell'anima una realtà vivente, non è solo una teoria, ma è una forza di vita, una unione di amore trasformante. La conoscenza di Cristo non è solo pensiero, ma è amore che apre gli occhi, trasforma l'uomo e crea comunione con il Logos, con il Verbo divino che è verità e vita. In questa comunione, che è la perfetta conoscenza e è amore, il perfetto cristiano raggiunge la contemplazione, l'unificazione con Dio. Clemente riprende finalmente la dottrina secondo cui il fine ultimo dell'uomo è divenire simili a Dio. Siamo creati all'immagine e alla similitudine di Dio, ma questo è anche una sfida, un cammino. Finalmente lo scopo della vita, la ultima destinazione è realmente divenire simili a Dio. E questo è possibile grazie alla connaturalità con Dio che l'uomo ha ricevuto nel momento della creazione, poiché egli è già di per sé immagine di Dio. Tale connaturalità permette di conoscere le realtà divine a cui l'uomo aderisce anzitutto per la fede, e attraverso la fede vissuta, la pratica delle virtù può crescere alla contemplazione di Dio. Così nel cammino della perfezione Clemente annette al requisito morale tanta importanza quanta ne attribuisce a quello intellettuale. I due vanno insieme perché conoscere non si può senza vivere e vivere non si può senza conoscere. L'assimilazione a Dio e la contemplazione di Lui non possono essere raggiunte con la sola conoscenza razionale. A questo scopo è necessario una vita secondo il loco, una vita secondo la verità. E di conseguenza le buone opere devono accompagnare la conoscenza intellettuale come l'ombra segue il corpo. Finalmente, due virtù soprattutto ornano, secondo Clemente, l'anima del vero cristiano. La prima è la libertà dalle passioni, l'altra è l'amore, la vera passione, che assicura l'intima unione con Dio. L'amore dona la pace e pone il vero gnostico in grado di affrontare anche i più grandi sacrifici, anche il sacrificio supremo nella sequela di Cristo, e lo fa salire di gradino in gradino fino al vertice della virtù. Così l'ideale etico della filosofia antica viene da Clemente ridefinito e coniugato con l'amore nel processo incessante di assimilazione a Dio. In questo modo l'Alessandrino costruisce la seconda grande occasione di dialogo tra l'annuncio cristiano e la filosofia greca, Sappiamo che San Paolo sull'Areopago in Atene, dove Clemente è nato, aveva fatto un primo tentamento del dialogo con la filosofia greca e in parte, in gran parte era fallito, ma gli avevano detto ti sentiremo un'altra volta. Ora Clemente riprende questo dialogo e nobilita in massimo grado la tradizione filosofica greca. Come ha scritto il mio venerato predecessore Giovanni Paolo II nell'enciclica Fides et Ratio, l'Alessandrino giunge a interpretare la filosofia come una istruzione propedeutica alla fede cristiana e di fatti Clemente è andato fino al punto di sostenere che Dio avrebbe dato la filosofia ai greci come un testamento loro proprio. Per lui la tradizione filosofica greca, quasi al pari della legge per gli ebrei, è ambito di rivelazione, sono due rivoli che vanno finalmente al Logos stesso. Così Clemente continua a segnare con decisione il cammino di chi intende dare ragione della propria fede in Gesù Cristo. Egli può servire ad esempio ai cristiani, ai catechisti, ai teologi del nostro tempo, ai quali Giovanni Paolo II nella ventesima enciclica raccomandava di recuperare ed evidenziare al meglio la dimensione metafisica della verità per entrare in un dialogo critico ed esigente con il pensiero filosofico contemporaneo. Vorrei concludere facendo nostra qualche espressione della celebre preghiera a Cristo Logos con la quale Clemente conclude il suo pedagogo. Egli supplica così: sii propizio, Dio, ai tuoi figli. Concedi a noi di vivere nella tua pace, di essere trasferiti nella tua città, di attraversare senza esserne sommersi il flutto del peccato, di essere trasportati in tranquillità dallo Spirito Santo e dalla sapienza ineffabile. Noi che di notte e di giorno fino all'ultimo giorno cantiamo un canto di ringraziamento all'unico Padre, al Figlio Pedagogo e Maestro, insieme allo Spirito Santo. Amen.